in primo piano. Martedì 1 febbraio, l'apertura del Sole 24 Ore sullo shock Egitto sul petrolio, ma vi segnalo anche, parla per la prima volta in un'intervista con il direttore Gianni Riotta, Alessandro Profumo, vale a dire l'ex numero uno di Unicredit, la prima volta che parla dopo aver abbandonato appunto Unicredit. Il Corriere della Sera, piano sulla crescita, niente tregua, no dell'opposizione, ma Berlusconi rilancia venerdì le misure. Per la Stampa, Berlusconi apre, il PD lo gela, è il tema ieri della proposta sul Corriere della Sera di Berlusconi. Per il Giornale, svolta sulle tasse, il piano del governo, Berlusconi cambia passo e annuncia liberalizzazioni, meno fisco, regole più semplici e IRAP da rivedere. Repubblica rimane sulla vicenda Ruby, ecco i bonifici delle notti di Arcore. Mentre il Messaggero fa un colloquio breve, il suo direttore con il Presidente della Repubblica, Napolitano, allarme fondato, questo è il titolo di prima pagina. Per il Fatto Quotidiano, un uomo solo allo sbando, si riferisce a Berlusconi. Mentre attenzione alla prima pagina di Libero, ce l'ha solo Libero questa notizia, di nuovo col trans, Marrazzo ci ricasca. L'ex governatore del Lazio fermato dai carabinieri a un posto di blocco. A bordo della sua macchina un transessuale. Allora, vediamo le due segnalazioni da cui voglio partire. Intanto una di colore, di costume, la troviamo su Repubblica, pagina 21. A che ora vi suona la sveglia? Ecco, si potrebbe iniziare così. A me cala già un velo di dramma sugli occhi. Peter ride, non lo so, Peter a che ora suona la sveglia? Alle 4 e mezza, a me va benissimo il suo confronto, alle 5 e mezza. Su Repubblica, ore 6 e 49, italiani giù dal letto, la sveglia suona sempre più presto. Questo, secondo il Centro per i Disturbi del Sonno delle Molinette di Torino, le 6 e 49 è l'ora media in cui un italiano attivo, adulto, che lavora, si sveglia. Alle 6 e 49, ecco perché diminuiscono le ore di sonno, le donne si alzano prima degli uomini. La verità è che c'è sempre meno tempo, gli spostamenti, eccetera. Insomma, le 6.49, questa è l'ora media di sveglia per gli italiani. Ore 6.49, italiani giù dal letto, la sveglia suona sempre più presto, lo trovate su Repubblica, ve lo segnalo, interessante, magari vi ci ritrovate. Mentre la seconda segnalazione viene dal Corriere della Sera, pagina 23, che cosa ti ha combinato il Presidente della Regione Sicilia, Raffaele Rombardo. Sta aprendo a Catania un punto vendita, il primo al sud dell'IKEA, ed ecco qui il manager, un'ora in anticamera, Lombardo alla guerra con IKEA. Il governatore Lombardo ha convocato Ton Reimers, olandese responsabile per l'Italia di IKEA, per discutere l'apertura del centro a Catania. E solo che cosa ha fatto? L'ha fatto attendere un'ora e mezza in anticamera e poi è partito in aereo e non l'ha ricevuto. Per chi produce mobili dal taglio essenziale, scrive Alfio Sciacca sul Corriere, è già un contrapasso ritrovarsi nei corridoi di Palazzo d'Orléans con tutte le sue frivolezze ottocentesche, a maggior ragione se si fa anticamera dopo aver ricevuto un invito del governatore. Nel caso di Ton Reimers, responsabile per l'Italia di IKEA, l'attesa è durata oltre un'ora per poi sentirsi dire «il presidente è fuori sede». È l'ultima puntata di una battaglia che il governatore Lombardo ha ingaggiato con IKEA, nonostante l'arrivo di questo centro, nonostante 350 posti di lavoro. Ma sentite cosa ha detto per esempio due giorni fa Lombardo: IKEA ha l'atteggiamento tipico dei grandi gruppi stranieri che vengono in Sicilia per fare i loro comodi, non gliene importa di assorbire la forza lavoro, grazie alle autorizzazioni facili hanno trovato terreno fertile per fare ciò che desiderano, anche contratti di poche centinaia di euro. Insomma, nonostante siano arrivate 48.000 domande di assunzione per 350 giovani, per 350 posti a IKEA, ecco la battaglia del governatore della Sicilia che dice IKEA non rispetta le regole, troppi contratti part-time a tempo determinato, si è fatta solo in minima parte carico degli ex lavori di aziende in crisi. E insomma, allora che ha fatto? L'ha invitato il capo di IKEA Italia, poi l'ha fatto aspettare un'ora e mezza e poi l'ha rifatto ricevere dal suo capo gabinetto dicendo il presidente è partito, è andato, il presidente Lombardo è andato. La politica si interroga sulla proposta, e oggi ci sono le reazioni, la proposta che ieri Silvio Berlusconi ha fatto sul Corriere della Sera, una lettera nella quale ha invitato il leader dell'opposizione Bersani a fare un piano per la crescita comune. Ieri la cronaca, insomma, ha fatto registrare una secca replica da parte di Bersani nel giro di poche ore. Oggi Bersani scrive la sua motivazione in una lettera a pagina 2-3 del Corriere della Sera, che dunque risponde a Berlusconi. La sintetizzo. Intanto Bersani scrive: non nascondo la mia prima impressione, se la proposta è un astuto diversivo per parlare d'altro mostra di essere davvero tempestiva, se è sincera suona singolarmente estemporanea. D'altra parte, negli anni trascorsi abbiamo imparato a nostre spese che Berlusconi ama gettare ponti quando è in difficoltà per abbatterli un minuto dopo. E poi ancora Bersani scrive: il Presidente del Consiglio non è in condizioni di aprire una fase nuova, ne è anzi l'impedimento. Nessuna partita si può giocare a tempo scaduto. Ormai il Paese non chiede al Presidente Berlusconi un programma, gli chiede un gesto. Mentre l'Italia perde drammaticamente la sua voce nel mondo ed è paralizzata davanti ai suoi problemi, se ci fosse da parte del Presidente del Consiglio la disponibilità a fare un passo indietro, tutti dovrebbero garantire, ciascuno nel suo ruolo, senso di responsabilità ed impegno. Se questa non sarà l'intenzione, il nuovo progetto per l'Italia dovrà essere presentato agli elettori. Insomma, Bersani dice: proposta fuori tempo massimo, Berlusconi deve fare solo un gesto, andarsene, altrimenti si va a votare. Questo in sintesi il punto di Bersani, anche se i giornali fanno capire che Berlusconi è seriamente intenzionato ad andare avanti su questa linea, tanto che venerdì ha annunciato un consiglio dei ministri che ha il punto centrale quello della liberalizzazione, il rilancio dell'economia. Berlusconi, la riforma dell'articolo 41, leggiamo Carmine Fotina, pagina 17 del Sole 24 Ore, e poi piano di defiscalizzazione per il Sud, stati generali per una crescita al 4%. Insomma, c'è chi dice: ma attenzione, questo è un tentativo di sviare. C'è chi invece vede dietro a tutto questo, e lo sottolineano vari giornali, la mente, la penna e lo spin doctor Giuliano Ferrara, che sarebbe tornato prepotentemente al centro dell'agenda politica come consigliere di Berlusconi, tanto che, guardate, sia sulla stampa, nello scontro, torna in scena la mano di Ferrara, pagina 3, Antonella Rampino. Non è il caimano che torna cavaliere, non è il despota sultano che si rimpannuccia come liberale imbrigliato da lacci e lacciuoli. Non è del Berlusconi liberale il ritorno che il Corriere della Sera inalberava ieri in prima pagina, ma è il ritorno piuttosto di Giuliano Ferrara. È sua la penna, perché è sua l'idea controbattere col liberismo la patrimoniale statalista auspicata da Giuliano Amato e Pellegrino Capaldo. Perché tutto nasce da lì. Ricordate qualche giorno fa l'intervista del Foglio a Berlusconi che diceva no la patrimoniale, e ieri tutto questo era lo spunto della lettera al Corriere della Sera. Anche il Fatto Quotidiano, a pagina 8, Giuliano Ferrara tradisce il Foglio per il Giornale, perché ha fatto un editoriale uscito sul Giornale domenica scorsa, e poi il fatto che sia dietro la mano di questa lettera, di questa proposta. Anche Concita De Gregorio, a pagina 2 della Stampa, scrive molto esplicitamente: Berlusconi ha reingaggiato Giuliano Ferrara, che prima ha scritto sul giornale di Paolo Berlusconi: ora è stato chiamato nella speranza che possa compensare l'esiguo peso dell'esangue Sallusti e nel contempo dare al tuttora premier qualche buon consiglio. Insomma, pare che ci sia la mano di Giuliano Ferrara, tanto che in prima pagina del Foglio Ferrara scrive così: ecco la controffensiva di Berlusconi, ecco i tempi dell'agenda economica, Bossi ci sta, settimana decisiva. C'è da registrare che anche sul Sole 24 Ore Nicoletta Picchio racconta che il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia dice: concentrarci sulla crescita per noi è l'aspetto più importante, è positivo che si parli di sviluppo. Mentre il Corriere della Sera con Mario Sensini racconta anche come si starebbe pensando di cambiare l'articolo 41 della Costituzione, quello che stabilisce il principio della libertà di iniziativa economica. Come? Aggiungendo due commi. Il primo è questo: la Repubblica promuove il valore della responsabilità personale in materia di attività economica non finanziaria. E il secondo sarebbe questo: gli interventi regolatori dello Stato, delle regioni e degli enti locali che riguardano le attività economiche e sociali si informano al controllo ex post. In buona sostanza, scrive il Corriere, La regola diventa quella del tutto è consentito salvo ciò che è espressamente proibito. Berlusconi poi vorrebbe puntare anche come seconda tappa sulla defiscalizzazione per le imprese che investono e i giovani che lavorano nel mezzogiorno, con il rilancio anche della Banca del Sud. E poi la terza gamba del piano di rilancio, quella più di difficile realizzazione per Mario Sensini, è la valorizzazione e la dismissione del patrimonio pubblico per abbattere il debito. Sta di fatto, insomma, che una cosa positiva da registrare: si torna a parlare almeno di cose concrete di politica anche sui giornali, il dibattito sui giornali. Per esempio, l'altro è quello del federalismo. Ci arriveremo tra poco. Prima però voglio attaccare a questa notizia sulla liberalizzazione, sulla ripresa, sulla crescita economica, quello che troviamo su tutti i giornali. Per esempio lo leggo a pagina 6 della Stampa, ma è ovunque, una di quelle notizie che ormai in Italia non fa notizia, ma che insomma prende paginate e paginate, dovrebbe fare nascere dibattiti, e invece no. L'Italia che evade non dichiarati quasi 50 miliardi di euro. Le fiamme gialle, la Guardia di Finanza denuncia un aumento del 46% sul 2009. Ecco il rapporto annuale della Guardia di Finanza. 20.263 miliardi, scusate, 20,263 miliardi occultati da 8.850 evasori totali. Evasori totali, 8.850 italiani. 10.500 evasori fiscali internazionali con residenze fittizie, insomma il totale di 50 miliardi di euro non dichiarati, scoperti dalla Guardia di Finanza. Evviva! E, sempre riguardo alla finanza, voglio registrare che, come detto, in prima pagina del Sole 24 Ore trovate un'intervista esclusiva che il direttore Gianni Riotta fa a Alessandro Profumo. È la prima volta che parla da quando ha lasciato Unicredit. Per la verità sono riflessioni sulla fase economica internazionale, tutte: euro, ripresa, rivolta araba, la prima intervista a Profumo che parla di USA, Europa, Cina, parla di una ripresa difficile, una uscita dalla crisi più laboriosa. Per la verità non parla mai col direttore del Sole 24 Ore della sua vicenda personale. Parla appunto con uno sguardo, d'altronde reduce dal forum di Davos, di uno sguardo ai nuovi paesi emergenti, alla Cina, alla Russia, al Brasile. Dell'Italia dice solo questo: il ministro Tremonti è stato l'unico uomo politico a partecipare al forum. Sono intervenuti solo pochi stranieri, con la sensazione diffusa di un paese, l'Italia, ripiegato su se stesso. Mentre i dati economici non sono tutti negativi, la dinamica politica è apparsa bloccata intorno alle vicende del premier Berlusconi e purtroppo assai poco suscettibile a riforme strutturali in tempi brevi. A quelle riforme il mondo ci attende con purtroppo crescente impazienza. Così Alessandro Profumo, intervistato da Riotta sul Sole 24 Ore. Appunto, il federalismo è l'altro tema molto concreto, perché giovedì è il voto decisivo alla bicameralina sul federalismo. Ormai pare che sia vicino a un pareggio, tra l'altro col pareggio c'è un giallo, se sono pareggio 15-15, che succede? Decade tutta la manovra del federalismo e dunque la Lega va al voto, come ha detto ieri Maroni, cioè o federalismo o si va al voto. Poi Calderoli in giornata l'ha smentito, tanto che qualcuno ha fatto registrare questa tensione all'interno della Lega, un qualcosa sicuramente di nuovo. In genere è difficile vedere all'interno della Lega delle tensioni così manifeste. Calderoli tratta ancora "discutiamo", questo sul Sole 24 Ore, Eugenio Bruno a pagina 16. Ci sono anche tutti raffigurati gli equilibri nella bicamerale: 30 deputati, 15 che votano in un modo e 15 in un altro. C'è il voto decisivo, tra l'altro, della Helga Thaler della SVP. C'è Di Pietro che fa un'intervista a Repubblica e fuga i dubbi e dice: noi voteremo no, l'Italia dei Valori ha un solo rappresentante, Belisario, che voterà no al federalismo senza se e senza ma, e dunque si è perso un voto, mentre l'Italia dei Valori aveva fatto una sorta di apertura nei giorni scorsi, tanto che Di Pietro inizia così: peccato, il federalismo era uno dei pochissimi argomenti di cui discutere al di fuori delle leggi ad personam. Ma ora Di Pietro si sente rammaricato e dice: il nostro rappresentante voterà no e quindi si dovrebbe arrivare a un verdetto di parità, 15-15. Secondo ora quelli che sono i pompieri della Lega, Calderoli, Bossi, questo voto di parità vorrebbe dire che non è una bocciatura al federalismo, si potrebbe andare avanti. Secondo, almeno leggendo l'interpretazione dell'intervista di ieri a Maroni, o passa al federalismo oppure si va alle urne. Sta di fatto che ora la Lega dice ufficialmente avanti anche con un eventuale stop nella bicamerale. Il voto decisivo sarà giovedì. Sta di fatto che la Padania titola Federalismo, ultima chiamata, l'appello di Calderoli, confrontiamoci sul merito. Giovedì è previsto il voto. La politica si anima anche con alcuni che stanno forse cambiando casacca. L'ultimo pare che sia Luca Barbareschi, da Finiano Doc. Questo scrive il Corriere della Sera, pagina 6, ma anche il Giornale a pagina 4. Pare che ieri ha incontrato Berlusconi ad Arcole, e questo è una notizia certa, Barbareschi. Di che cosa si siano detti non si sa. Sta di fatto che qualcuno fa sapere che Barbareschi sta manifestando dei dubbi e potrebbe lasciare Fini per andare al gruppo misto. Secondo il Giornale, altri due onorevoli del Movimento per l'Autonomia, Ferdinando Latteri e Aurelio Misiti, che sono per la verità stati messi nel calderone di quelli che potrebbero cambiare casacca varie volte anche in passato, potrebbero approdare alla maggioranza. E dunque Barbareschi più due dell'MPA. Trovate ancora molto dell'inchiesta sicuramente che coinvolge Berlusconi. Dovrebbe esserci proprio in settimana, altro passaggio certamente decisivo, la richiesta della Procura di Milano del rito immediato per il Presidente del Consiglio. Ecco i bonifici delle notti ad Arcore. Questo è il titolo di apertura di Repubblica. Secondo Piero Colaprico e Giuseppe D'Avanzo, la Procura di Milano avrebbe scoperto i conti. Secondo il principio che alla Ilda Boccassini aveva dato Giovanni Falcone, follow the money, cioè segui i soldi per cercare di capire laddove ci sono delle ipotesi di reato. Ebbene, sarebbero stati trovati un conto. Da questo conto, come scriveva ieri Repubblica, ha beneficiato il consigliere regionale Nicole Minetti, ed è lungo decine di nomi l'elenco segreto di chi nel corso del tempo, per tutto il 2010, è stato sostenuto finanziariamente dal capo del governo. Tra i nomi ci sarebbero anche molte sorprese e molte delle figure femminili che hanno accompagnato la vita del presidente negli ultimi anni. Eccolo qua, follow the money è il capitolo aggiuntivo che i pubblici ministeri di Milano lasceranno alla richiesta di giudizio immediato che presenteranno, e dovrà decidere sulla richiesta di rito immediato il giudice per le indagini preliminari Cristina Di Censo. Questo per quel che riguarda l'inchiesta. Anche noi parliamo dell'inchiesta con le donne che si mobilitano, le proteste. Ora su Repubblica anche noi uomini dobbiamo dire basta, da Placido a Salvatores, la dignità delle donne è violata. Secondo voi è così? Fanno bene a protestare? Ci sarà tra le nostre ospiti anche Silvia Ballestra, che oggi fa anche una lunga conversazione con Isabella Bossi Fedrigotti a pagina 9 del Corriere. Donne in una società bloccata, dobbiamo ripartire dal via, si chiede Silvia Ballestra. Fanno bene le donne a protestare. Marrazzo ci ricasca. Questo è il titolo di apertura di Libero, lo troviamo solo qui, di nuovo col trans. A più di un anno dallo scandalo che gli è costato la poltrona del governatore, Piero Marrazzo è stato fermato martedì scorso dai carabinieri a un posto di blocco mentre si trovava in automobile con un viado sudamericano. Questo racconta poi a pagina 2 Rita Cavallaro per Libero. È passato più di un anno dallo scandalo, eppure Piero Marrazzo non cambia abitudini. Ecco, è stato fermato in via Tuscolana, all'angolo con via dell'Arco di Travertino. È stata una pattuglia dei carabinieri del nucleo radiomobile della capitale, durante un consueto posto di blocco, a fermare questa Lexus sulla quale viaggiava, coi vetri oscurati, Piero Marrazzo. L'ex esponente del PD era alla guida, ma non era solo, accanto a lui era seduto un trans coi capelli lunghi e castani legati con una coda, e prima ancora che venissero richiesti i documenti Marrazzo ha cercato di scusarsi sfoggiando un insolito accento calabrese, sperando forse in questo modo di non essere riconosciuto. Per lui però hanno parlato i documenti, quelli della macchina intestata alla ex moglie Roberta Serdoz e la patente di guida con il nome, cognome, la data di nascita, la residenza dell'ex governatore. Marrazzo si è giustificato dicendo che stava semplicemente accompagnando l'amica a casa. Il viado effettivamente vive lì in quella zona. Sta di fatto che insomma, questa vicenda lo riporta la ribalta della cronaca e in prima pagina, tra l'altro, racconta Libero: non è la prima volta che Marrazzo viene fermato in piena notte. 4 mesi fa, nel settembre scorso, è stato fermato dalla polizia in zona Due Ponti. In quell'occasione sfrecciava sulla Lexus in via Bruno Bruni, dove i poliziotti l'hanno fermato, ma allora non aveva con sé il libretto di circolazione, tagliando assicurativo, e dunque era scattata una multa semplicemente di 76 euro per 2 infrazioni al codice della strada. E insomma, Marrazzo ci ricasca di nuovo col trans. Questo sicuramente è un colpo, se volete, di Libero, nel senso che Libero è l'unico giornale, e lo mette in prima pagina in grande evidenza, che ha questa notizia. Trovate ancora molto dell'Egitto. Io, per la seconda volta, tra le analisi politiche, la notizia più importante è che l'esercito ha detto, come abbiamo sentito nel GR, stiamo dalla parte del popolo e quindi nelle manifestazioni non apriremo il fuoco. Questo è un segnale molto importante. Ma per il secondo giorno consecutivo voglio concentrarmi. Qualcuno ieri mi ha detto: ma no, non sminuire questa notizia, quasi criticandomi. No, non sminuisco la notizia, tant'è vero che tra le varie pagine scelgo per la seconda volta di parlare di questo, cioè dei tentativi di trafugare il patrimonio dell'umanità ricchissimo, di cui è ricchissimo l'Egitto. Questa volta è capitato a Luxor, come racconta Alex Van Buren su Repubblica, pagina 13, un tentativo di assalto al tempio per cercare di trafugare tutti i reperti antichissimi, millenari, per poi, immagino, rivenderli e cercare di fare soldi. Ma la folla ferma i vandali. Ci mancava anche l'assalto ai tesori di Luxor dopo quello al Museo Egizio del Cairo. Una banda di giovani armati domenica ha fatto irruzione nel tempio di Karnak, esplodendo proiettili in aria. Si era da poco alzata l'alba, subito una folla di 400 cittadini si è riversata sui teppisti finiti ammanettati dalla polizia turistica. Dunque anche un segnale molto positivo, cioè della gente comune che ha fermato queste persone che cercavano di rubare questi tesori patrimonio dell'umanità. Ora c'è anche l'allarme da Roma, da Paolo Mattier, che è uno dei massimi archeologi mondiali, è colui che ha scoperto Ebla, insieme alla moglie egittologa Gabriella Scandone. Dice: sarebbe straordinariamente grave se dovesse accadere all'Egitto quello che si è visto in Iraq. È necessario intervenire con un'urgenza da parte dell'ONU, dell'UNESCO, perché bisogna preservare questi valori e questi beni millenari. Certo, c'è questo allarme, nell'allarme, a fianco alla situazione politica, quello dei tentativi di trafugare tutti i tesori dell'umanità in Egitto. Per la prima volta parla, e giustamente Repubblica la mette in prima pagina, Daniela Bongiorno, la moglie di Mike Bongiorno, la cui salma è stata trafugata nei giorni scorsi. Aiutatemi a riportare Mike a casa. Ne parla con Dario Crestodina in una bella intervista che vi segnalo, in prima pagina e poi a pagina 20. A costo di apparire ridicola, le voglio raccontare questa cosa, esordisce Daniela Bongiorno. Ci sono giorni nei quali mi ritrovo a parlare con Mike. Gli parlo davvero, sento in casa il rumore delle mie parole. Dalla sua parte percepisco i pensieri che vuole farmi arrivare. C'è un non so che di trascendente in questo. Lui credeva nella forza del divino, nell'aldilà, negli angeli custodi. Questa è la ragione. Posso parlare di ragione per la quale, dopo la sua morte, sono andata poche volte a trovarlo nel cimitero di Dagnente. Poi dice: senza violare il segreto istruttorio, non ho avuto alcun tipo di notizia. Non ci hanno mai contattato le persone che hanno trafugato la salma. Poi si è diffusa l'indiscrezione secondo la quale non sareste disposti a pagare alcun riscatto. Mai detto, non abbiamo avuto alcun contatto con i rapitori, né io personalmente voglio averne. Le confesso che se dovesse capitare non so come reagirei. Si facciano vivi con la polizia o i miei figli. Se devo fare un appello, lo faccio agli italiani. Siamo pronti a ricompensare chiunque ci dia informazioni utili al ritrovamento di mio marito. Come l'ho saputo, sarà stato mezzogiorno, ero in riunione nella fondazione, si è aperta la porta, sono entrati i miei figli Michele e Leonardo e mi hanno detto: mamma, dobbiamo dirti una cosa bruttissima. Mi sono spaventata, ho subito pensato ai nipoti, che è successo ai bambini? Allora Michele ha detto: papà. Aveva la stessa faccia del giorno in cui Mike è morto. Ho capito che era accaduto qualcosa alla tomba. E poi Daniela Bongiorno racconta anche che italiano era Mike Bongiorno, un italiano atipico, rigoroso, severo, con un'educazione militare, uno che si metteva in fila, che puniva i figli se non obliteravano il biglietto del tram, che fino alla fine si emozionava se doveva rispondere al telefono a un direttore Rai, uno che in TV appariva a volte cattivo con concorrenti, vallette, quando doveva richiamarle alle regole della trasmissione, ma anche della pubblicità, perché la pubblicità pagava e quindi le si doveva il massimo del rispetto. E parla per la prima volta, è una bella intervista, intensa. Daniela Bongiorno, rivoglio Mike, i banditi si facciano vivi, e poi questo appello, pronta una ricompensa per chiunque possa aiutarci. Con questo concludo la rassegna stampa. Vi ricordo il tema del nostro sondaggio: le donne che si dicono indignate, che vogliono scendere in piazza, raccolgono firme, petizioni, perché dicono il Presidente del Consiglio lede la dignità di tutte noi donne. Secondo voi fanno bene? Sono proteste condivisibili? Condividete, questo è il tema del nostro sondaggio. Votate su Radio24.it, ne parleremo dopo il GR.